Veggiolo un'altra volta esser deriso. Veggio rinovellar l'aceto il fiele, tra vivi ladroni esser anciso. Veggio il nuovo Pilato sì crudele che ciò non sazia, ma sanza decreto portar nel tempio le cupide vele. Oh, Signor mio, quando sarò io lieto a veder la vendetta che nascosa fa dolce l'ira tua nel tuo segreto? Ciò che io dicea di quell'unica sposa dello Spirito Santo e che ti fece verso me volger per alcuna chiosa, tanto è risposto a tutte nostre prece quanto il dì dura. Ma come il s'annotta, contrario suon prendemo in quella vece. Noi repetiam Pigmalione allotta, cui traditore e ladro e parricida fece la voglia sua dell'oro ghiotta. E la miseria dell'avaro Mida, che seguia la sua dimanda gorda, per la qual sempre convien che si rida. Del folle Acan ciascun poi si ricorda, come furò le spoglie, sì che l'ira di Iosuè qui par che ancor lo morda. Indi accusiam col marito Saffira, lodiam i calci che ebbe Liodoro, e in infamia tutto il monte gira. Polinestor cancise Polidoro, ultimamente ci si grida crasso dilci, che il sai, di che sapore è l'oro? Talor parla l'uno alto e l'altro basso, secondo l'affezion ch'a dirci sprona, ora a maggiore e ora a minor passo. Però, al ben che il dici si ragiona, dianzi non era io sol, ma qui da presso non alzava la voce altra persona. Noi eravam partiti già da esso e brigavam di soverchiar la strada, tanto quanto al poder n'era permesso, quando io sentii, come cosa che cada, tremar lo monte, onde mi prese un gelo, qual prender suol colui che a morte vada. Certo, non si scoteo sì forte d'elo pria che la tona in lei facesse il nido a parturir li due occhi del cielo. Poi cominciò da tutte parti un grido tal che il maestro inverso me si feo dicendo: non dubbiar mentre io ti guido. Gloria in excelsis tutti deo dicean, per quel ch'io da vicin compresi onde intender lo grido si poteo. Noi stavamo immobili e sospesi come i pastor che prima udir quel canto finché il tremar cessò ed el compiesi. Poi ripigliammo nostro cammin santo, guardando l'ombre che giacean per terra, tornate già in su l'usato pianto. Nulla ignoranza mai con tanta guerra mi fe desideroso di sapere, se la memoria mia in ciò non erra, quanta pareami allor pensando avere. Né per la fretta di mandare eroso, né per me lì potea cosa vedere, così mandava, timido e pensoso. Fine del 20° canto del Purgatorio.